Arstein. Yeah, questo è Hater Proof, Batman, Jamie Tights. Yeah. Ok, grandi se l'avete preso, comprato. E se non l'avete ancora fatto, sono sicuro che lo comprerete molto molto presto. Yeah, DJ Arch, Arsteins. Lo sai che se non stai su Arsteins conti veramente un cazzo di niente, frate. Yeah, oh, yes, Extreme Team. Oh, yeah. Questo è tuo fratello cane secco, hey, che ti accompagnerà per tutto il cazzo del mixtape. Vai così! Hey, ho studiato il tuo sistema, hey, per eluderlo, hey, di voi. Ne ho fatto un gran numero e non sono un energumeno. Posso crepare ma ti rimane la culeo. Rapper ideale, zio, MC no umeno. Fisico smilzo, incastro i testi tali che a te ti ridicolizzo tipo spasmi intestinali. Linko la coccarda, picchio tipo una alabarda. Conto disco, schippo tipo piripiccia sarabanda. Guardo il mio stato di FB è tragicomico e non parlo di quelli che scrivo dopo che alzo il gomito. Tu ancora aspetti che t'accetti dietro il monitor, ma stai dall'altra parte, d'altra parte tipo un glory hole. Dovessi dirti della mia gavetta, dovresti accomodarti, girarti un'altra cannetta. Dai cerchi di freestyle all'open mic alla scaletta, ho visto le miserie della serie cadetta. Dall'88 come i folli in branco, lo stesso anno in cui è scomparso Donnie Darko. 22 anni dopo spacco su ogni palco, e se non altro almeno un sogno non infranto. Ho fatto tutto come vedi anche se in fasi corte, non ho mai fatto brutto tranne alcuni casi a monte. E metti d'astinenza perché sulle basi morte, ogni via barra fra un'esperienza di quasi morte. Jamie Tights, il livello non scende mai, come il prezzo dai benzinai. Puoi pure correre fra te ma non ci prendi mai, non te ne faccio passare una Benji Price. Vuoi featuring? Che ci fai? Tuo livello è basso come la voce di Barry White. Ti faccio a pezzi come Harry, fumo blueberry per scrivere versi più belli. Ai tuoi live vengono 30 persone, tanto che ormai vendi CD insieme a cerca persone. Che mi dai della tua storia è la terza versione, ma sei una mezza invenzione, non vali mezza pensione. Ancora con un po' di pop te ne vai in malora, con me in Olanda se chiudono i coffee shop. Il mio rap è complesso con microchip e slot, e con tuo fratello annesso sembrate Chip e Chop. Mi dicevi rappi male e Copinelli, stavi confondendo i cigni con i merli. Fanculo alla strumentale con i suoni belli, rappo se non copio il finale a Monicelli. Entra dentro al nostro multidegrado, tra tumulti, urti, bombe e vari furti allo stato. Tu che ci insulti non ti servirà più l'avvocato. Hi haters, benvenuti, questo è l'ultimo quadro. Yeah.